Lydgate non parlò, ma agitò la testa da un lato e storse gli angoli della bocca preso dalla disperazione. Rosamond, notando che non la guardava, si alzò e gli posò davanti la tazza di caffè. Ma lui non ci fece caso e proseguì un dramma e un dibattito interiore, muovendosi di tanto in tanto sulla sedia, con un braccio appoggiato al tavolo e sfregandosi la mano contro i capelli. In lui c'era un tumulto di emozioni e di pensieri che non lo lasciava dare sfogo completo alla sua ira, né perseverare con semplice rigidezza di risoluzione. Rosamond approfittò del suo silenzio. Quando ci siamo sposati, ognuno pensava che la tua posizione fosse assai elevata. Allora non avrei immaginato che avresti voluto vendere i nostri mobili e prendere una casa in Bright Street, dove le stanze sono tutte simili a gabbie. Se dobbiamo vivere così, almeno partiamo da Middlemarch. Queste sarebbero osservazioni assai valide, disse Lydgate con aria per metà ironica. C'era ancora un pallore vizzo attorno alle sue labbra mentre guardava il caffè e non lo beveva. Queste sarebbero osservazioni assai valide, se non si desse il caso che avessi dei debiti. Molte persone devono essere indebitate nello stesso modo, ma se sono rispettabili la gente si fida di loro. Sono sicura di aver sentito mio padre dire che i Torbit avevano dei debiti e tiravano avanti molto bene. Non può essere bene agire precipitosamente, disse Rosamond con aria di serena saggezza. Lydgate se ne restava seduto, paralizzato da impulsi opposti. Dato che nessun ragionamento sembrava avere la probabilità di guadagnarsi l'assenso di Rosamond, voleva spaccare e stritolare un qualche oggetto su cui potesse perlomeno lasciare un'impronta, oppure dirle brutalmente che il padrone era lui e che lei doveva ubbidire. Ma non solo temeva l'effetto di tali misure estreme sulla loro vita in comune, aveva un timore crescente della calma, elusiva ostinazione di Rosamond, che non consentiva ad alcuna asserzione di potere di divenire definitiva. E ancora lei lo aveva toccato in un punto assai sensibile, sottintendendo che era stata attirata da una menzognera visione di felicità nello sposarlo. Quanto a dire che il padrone era lui, ciò non corrispondeva a verità. La stessa decisione a cui si era piegato a forza di logica e di orgoglioso senso dell'onore stava cominciando a perdere forza al contatto di torpedine di lei. Beve la sua mezza tazza di caffè e poi si alzò per andarsene. Posso almeno chiederti che al momento tu non vada da Tremble finché non si sia visto che non ci sono altre soluzioni? Disse Rosamond. Sebbene non nutrisse molta paura, pensò che fosse meglio non rivelargli che aveva scritto a Sir Godwin. Promettimi che non andrai da lui per alcune settimane, o senza dirmelo. Lydgate emise una breve risata. Penso che dovrei essere io a esigere da te la promessa che non farei nulla senza dirlo a me, disse, volgendo d'un tratto gli occhi su di lei e poi avviandosi verso la porta. Ricordi che andiamo a cena da mio padre? Disse Rosamond, desiderando che si voltasse e le facesse una confessione più completa. Ma egli disse soltanto: Oh sì, con impazienza, e se ne andò. Lei giudicò che si fosse comportato in modo assai odioso a non pensare che le dolorose proposte che era stato costretto a sottoporle erano più che sufficienti, senza mostrare un umore così scostante. E quando lei gli aveva fatto la richiesta moderata di rimandare la sua visita a Tremble, era stato crudele da parte sua non assicurarla di ciò che aveva intenzione di fare. Era convinta di aver agito per il meglio sotto ogni aspetto e ogni parola irritante o adirata di Lydgate nella mente di lei si aggiungeva solo alla lista delle offese subite. La povera Rosamond da mesi aveva cominciato ad associare il marito a sentimenti di delusione e il rapporto terribilmente inflessibile del matrimonio aveva perso il magico potere di suscitare sogni deliziosi. L'aveva liberata dai fastidi della casa paterna, ma non le aveva dato tutto ciò che aveva desiderato e sperato. Il Lydgate di cui era stata innamorata era stato per lei un insieme di presupposti fantasiosi, la maggior parte dei quali era svanita, mentre il loro posto era stato preso da particolari quotidiani che dovevano venir vissuti un'ora dopo l'altra, non attraversati fluttuando, scegliendo con rapidità gli aspetti favorevoli. Le abitudini della professione di Lydgate, il suo interesse per gli argomenti scientifici che non l'abbandonavano neppure quando era a casa e le parevano quasi un morboso gusto vampiresco, la sua peculiare concezione delle cose che non era mai stata oggetto di dialogo durante il corteggiamento, tutti questi influssi continuamente estranianti, anche a prescindere dal fatto di essersi messo in una condizione di svantaggio in città e e dalla prima sconvolgente rivelazione sul debito verso Dower, le avrebbe reso la sua presenza tediosa. C'era un'altra presenza che fin dai primi giorni del suo matrimonio, fino a 4 mesi prima, aveva costituito un gradevole divertimento, ma se n'era andata. Rosamond non voleva confessare a se stessa quanto il vuoto di quella partenza avesse a che fare con la sua noia estrema. E le sembrava, forse aveva ragione, che un invito a Quellingham e un'occasione offerta a Lydgate di stabilirsi in una città diversa da Middlemarch, a Londra o da qualche parte probabilmente esente da aspetti sgradevoli, l'avrebbe più che mai soddisfatta e le avrebbe reso indifferente l'assenza di Will Ladislaw, verso il quale provava un certo risentimento per la sua esaltazione di Mrs. Chasuble. Il rapporto fra Lydgate e Rosamond era arrivato a questo punto il giorno di Capodanno, quando cenarono dal padre di lei. Lei guardava con mite indifferenza alla volta di lui, memore del suo comportamento iroso a colazione, e lui era afflitto assai più intimamente dal conflitto interiore nel quale la scena della mattina segnava solo uno di molti episodi. Il suo sforzo veemente mentre parlava con Mr. Fairbrother, il suo sforzo di fingere cinicamente che tutti i modi di fare soldi sono essenzialmente gli stessi e che il caso ha un dominio che riduce la scelta all'illusione di uno stupido, non era che il sintomo di un'indecisione, una reazione intorpidita dagli antichi stimoli dell'entusiasmo. Cosa doveva fare? Egli vedeva con perspicacia ancora maggiore di Rosamond lo squallore di portarla nella piccola casa di Bride Street, dove lei avrebbe avuto scarsi mobili attorno a sé e scontentezza nel cuore. Una vita di privazioni e una vita con Rosamond erano due immagini che erano divenute sempre più inconciliabili fin da quando si era presentata la minaccia delle ristrettezze economiche. Ma anche se le sue decisioni avevano obbligato le due immagini a combinarsi, le premesse utili a quel duro cambiamento non erano per nulla in vista. E sebbene non avesse dato la promessa che la moglie le aveva chiesto, non tornò da Tremble. Addirittura cominciò a pensare di fare una scappata nel nord e di andare a trovare Sir Godwin. Una volta aveva creduto che nulla lo avrebbe indotto a chiedere del denaro allo zio, ma allora non aveva conosciuto tutto l'assillo di alternative ancora più sgradevoli. Non poteva contare sull'effetto di una lettera. Era solo con un colloquio, per quanto questo gli potesse essere sgradevole, che poteva offrire una spiegazione esauriente e poteva mettere alla prova la consistenza della parentela. Lydgate aveva appena cominciato a pensare a questo passo come il più facile, che ebbe una reazione di rabbia all'idea che lui che tanto tempo prima aveva deciso di vivere lontano da simili abietti calcoli, da una simile apprensione egoistica per le inclinazioni e le tasche di uomini con i quali era stato orgoglioso di non avere alcuno scopo in comune, fosse caduto non al loro livello, ma al livello di chiedere loro aiuto. Capitolo 65. La tendenza della natura umana ad essere lenta nella corrispondenza la vince anche sull'attuale sveltimento dell'andamento generale delle cose. Cosa c'è da stupirsi, quindi, se nel 1832 il vecchio Sir Godwin Lydgate tardasse a scrivere una lettera che premeva ad altri più che a lui. Quasi 3 settimane del nuovo anno erano trascorse e Rosamond, in attesa di una risposta al proprio seducente appello, restava ogni giorno delusa. Lydgate, totalmente all'oscuro della sua attesa, vedeva giungere i conti e immaginava che fosse imminente il giorno in cui Dover avrebbe sfruttato il proprio vantaggio sugli altri creditori. Non aveva fatto cenno a Rosamond del progetto da lui covato di recarsi a Quellingham. Non voleva ammettere ciò che a Rosamond sarebbe sembrato un cedimento ai suoi desideri, dopo un rifiuto indignato fino all'ultimo momento, ma in realtà egli aspettava di mettersi in viaggio entro breve. Un tratto della ferrovia gli avrebbe consentito di compiere l'intero viaggio di andata e ritorno in 4 giorni. Ma un mattino, dopo che Lydgate era uscito, giunse una lettera indirizzata a lui, che Rosamond riconobbe subito come proveniente da Sir Godwin. Lei era piena di speranza. Forse c'era incluso un biglietto espressamente per lei, ma per la questione del denaro o di altri aiuti ci si rivolgeva naturalmente a Lydgate e il fatto che gli fosse stato scritto, anzi lo stesso ritardo nello scrivere, sembravano attestare che la risposta era assolutamente positiva. Era troppo eccitata da questi pensieri per fare alcunché, tranne dare qualche lieve rammendo in un angolo tiepido della sala da pranzo, con l'involucro di questa lettera importantissima sul tavolo davanti a lei. Verso mezzogiorno udì il passo del marito nel corridoio e, alzatasi a passi veloci per andare ad aprire la porta, disse con l'accento più delicato: Terzius, vieni dentro, c'è una lettera per te. Ah sì, fece lui senza togliersi il cappello, ma semplicemente facendola girare dentro l'arco del suo braccio per dirigersi verso il punto dove si trovava la lettera. Mio zio Godwin! Esclamò, mentre Rosamond si rimise a sedere e stette ad osservarlo mentre apriva la lettera. Si era aspettata che restasse sorpreso. Mentre gli occhi di Lydgate scorrevano rapidamente la breve missiva, lei vide il suo volto, di solito di un colorito lievemente scuro, assumere un secco biancore, con narici e labbra frementi, le sbatté la lettera davanti e disse con veemenza: Sarà un peso impossibile vivere con te, se persisterai ad agire sempre in segreto, ad agire contrariamente ai miei ordini e a nascondermi le tue azioni. Egli frenò le parole e le volse le spalle, poi si girò e si mise a camminare qua e là, si sedette e si alzò di nuovo impaziente, afferrando degli oggetti duri in fondo alle tasche. Temeva di pronunciare qualcosa di irrimediabilmente spietato. Anche Rosamond era mutata di colore mentre leggeva. La lettera era di questo tenore: Terzius, non convincere tua moglie a scrivermi quando hai una cosa qualsiasi da chiedermi. È un tipo di condotta tortuosa e adulatrice di cui non ti avrei creduto capace. Non voglio mai scrivere una donna per questioni di affari. Quanto a fornirti 1.000 sterline, o metà di tale somma, non posso fare nulla del genere. La mia famiglia mi svena fino all'ultimo centesimo. Con 2 figli cadetti e 3 figlie, non è probabile che abbia del liquido a disposizione. Mi sembra che tu abbia dato fondo ai tuoi soldi abbastanza presto e che abbia combinato un bel pasticcio dove ti trovi. Quanto prima te ne andrai altrove, tanto meglio. Ma non ho nessun rapporto con uomini della tua professione e in questo non posso aiutarti. Ho fatto quanto di meglio mi era possibile per te come tutore e ti ho lasciato fare di testa tua quando hai voluto darti alla medicina. Avresti potuto farti soldato o prete. I tuoi soldi ti sarebbero bastati per quello e ti saresti trovato davanti a una carriera più sicura. Tuo zio Charles ti serba rancore per non aver scelto la sua professione, ma non io. Ti ho sempre augurato ogni bene, ma ora devi considerarti completamente responsabile di te stesso. Il tuo affezionato zio, Godwin Lydgate. Quando Rosamond ebbe terminato di leggere, restò seduta del tutto immobile, con le mani intrecciate sul grembo, celando ogni esibizione del suo acuto disappunto e trincerandosi in una calma passività di fronte al furore del marito. Lydgate smise di muoversi, la guardò di nuovo e disse con tagliente severità: Basterà questo a convincerti del male che puoi combinare mischiandoti senza dirmi niente? Ora hai abbastanza buon senso per riconoscerti incompetente a giudicare e agire per me, a interferire con la tua ignoranza in faccende che sta a me decidere. Le parole erano dure, ma questa non era la prima volta che Lydgate veniva frustrato da lei. Lei non lo guardò e non rispose nulla. Mi ero quasi deciso ad andare a Quellingham. Mi sarebbe costato molto dolore farlo, eppure avrebbe potuto essere di una certa utilità. Ma è stato inutile che pensassi a qualsiasi cosa. Hai sempre neutralizzato segretamente le mie azioni. Mi illudi dandomi un falso consenso e poi io sono alla mercé dei tuoi stratagemmi. Se è tua intenzione opporti a ogni desiderio che esprimo, dillo e sfidami. Allora saprò almeno cosa devo fare. È un momento terribile della vita dei giovani quando la forza del vincolo d'amore si trasforma in questa capacità di offendere. A dispetto dell'autocontrollo di Rosamond, una lacrima cadde silenziosa e le scivolò sulle labbra. Non disse ancora nulla, ma sotto quel mutismo era celato un effetto intenso. Era talmente disgustata del marito che avrebbe voluto non averlo mai incontrato. La maleducazione di Sir Godwin nei suoi confronti e la sua completa mancanza di sentimenti lo collocavano a livello di Dower e di tutti gli altri creditori, gente antipatica che pensava solo a se stessa e non si curava di quanto la potesse irritare. Anche suo padre era cattivo e avrebbe potuto fare di più per loro. In effetti, nell'universo di Rosamond non c'era che una persona che lei non considerasse biasimevole, e questa era la graziosa creatura dalle trecce bionde e con le piccole mani intrecciate sul grembo, che non si era mai espressa in modo disdicevole e aveva sempre agito per il meglio. E il meglio, naturalmente, era ciò che le andava più a genio. Lydgate, mentre taceva e la guardava di nuovo, cominciò a provare quel senso quasi esasperante di impotenza che si possessava delle persone focose, quando al loro ardore si contrappone un silenzio dall'aspetto innocente, la cui mite aria di vittima sembra metterle dalla parte del torto, e finisce per contagiare anche la più giusta indignazione con un dubbio sulla sua legittimità. Aveva bisogno di recuperare la piena certezza di avere ragione moderando le proprie parole. Non capisci, Rosamond, ricominciò cercando di essere semplicemente serio e non aspro, che nulla può essere più deleterio di una mancanza di franchezza e di confidenza fra di noi. È successo più e più volte che io abbia espresso un desiderio preciso e che tu abbia dato l'impressione di essere d'accordo. Eppure dopo hai disubbidito segretamente al mio desiderio. In questo modo non posso mai sapere di cosa debba fidarmi. Potrebbe esserci qualche speranza per noi se ammettessi questo. Sono una bestia così ragionevole e furiosa. Perché non devi essere franca con me? Ancora silenzio. Direi soltanto che ti sei sbagliata e che posso star certo che non agirei segretamente in futuro, insistette Lydgate, ma con un certo tono esigente che Rosamond fu lesta a cogliere. Essa parlò con freddezza. Non posso in alcun modo fare ammissioni o promesse a risposta alle parole che hai usato nei miei confronti. Non sono stata abituata a un linguaggio di quel genere. Hai parlato del mio immischiarmi senza dirti niente, della mia ignoranza che interferisce e del mio falso consenso. Io non mi sono mai espressa in questi termini con te e penso che sia tu a dover chiedere scusa. Hai detto che è impossibile vivere con me. Certo, non mi hai reso piacevole la vita negli ultimi tempi. Credo che ci fosse da aspettarsi che io avrei tentato di prevenire alcune delle difficoltà che il nostro matrimonio mi ha portato. Un'altra lacrima cadde mentre Rosamond cessava di parlare e se l'asciugò con la stessa compostezza della prima. Lydgate si buttò su una sedia, sentendosi messo in scacco. Dov'era un angolo nella mente di lei che potesse accogliere una rimostranza? Egli posò il proprio cappello, gettò un braccio sullo schienale della sedia e rimase per qualche momento a fissare il suolo senza parlare. Rosamond, rispetto a lui, aveva il doppio vantaggio di essere insensibile alla giustezza del suo rimprovero e di essere sensibile alle difficoltà innegabili ora presenti nella loro vita matrimoniale. Sebbene la sua falsità nella faccenda della casa fosse stata superiore a quanto egli sapeva e avesse in effetti impedito ai Plymdale di venirne a conoscenza, non si rendeva conto che la sua azione si potesse propriamente chiamare falsa. Non siamo obbligati a identificare secondo una rigida classificazione i nostri atti, non più dei nostri articoli di drogheria e dei nostri abiti. Rosamond sentiva di essere addolorata ed era questo ciò che Lydgate doveva riconoscere. Quanto a lui, il bisogno di adattarsi alla natura della moglie, i cui difetti rendevano ancora più inflessibile, lo teneva come una tenaglia. Aveva cominciato a prevedere con allarme il suo irrevocabile disamorarsi per lui e il conseguente squallore della loro vita. La pronta pienezza dei suoi sentimenti fece sì che questo timore prendesse rapidamente il posto delle prime violente manifestazioni della sua rabbia. Sarebbe stata certamente una vacua millanteria da parte sua dire che era il suo padrone. Non mi ha reso la vita piacevole negli ultimi tempi. Le difficoltà che il nostro matrimonio mi ha portato. Queste parole gli bruciavano nella mente come un dolore provoca un sogno abnorme. Se egli non fosse solo caduto dal suo più alto ideale, ma fosse sprofondato nell'odiosa pastoia dell'odio domestico. Rosamond, disse volgendo gli occhi su di lei con uno sguardo malinconico, dovresti passare sopra le parole di un uomo quando è deluso e provocato. Tu ed io non possiamo avere interessi opposti. Io non posso separare la mia felicità dalla tua. Se io sono arrabbiato con te, È perché sembra che tu non ti renda conto del fatto che qualsiasi dissimulazione ci divide. Come potrei desiderare di renderti qualcosa difficile, o con le mie parole, o con la mia condotta? Quando ti faccio male, faccio del male a una parte della mia stessa vita. Non sarei mai arrabbiato con te se tu fossi del tutto franca con me. Io ho solo desiderato di impedirti di buttarci nella miseria, precipitosamente, senza alcuna necessità. Disse Rosamond mentre le lacrime rispuntavano per un sentimento più dolce ora che il marito si era raddolcito. È così penoso essere disonorati qui, fra tutta la gente che conosciamo, e condurre una vita così miserevole. Vorrei essere morta col bambino. Parlò e pianse, con quella dolcezza che rende parole simili e lacrime onnipotenti su un uomo amorevole. Lady Gate tirò la propria sedia vicino a quella di lei e con la sua mano tenera e forte le appoggiò il capo delicato contro la propria guancia. Si limitò ad accarezzarla, non disse nulla. Infatti, cosa c'era da dire? Egli non poteva prometterle di evitarle la temuta vita miserabile, perché non scorgeva alcun mezzo sicuro per farlo. Quando la lasciò per uscire di nuovo, si disse che era 10 volte più dura per lei che per lui. Egli aveva una vita lontano da casa e si faceva costante appello alla sua attività per il bene di altri. Voleva poter scusare tutto in lei, se avesse potuto, ma era inevitabile che, portato a scusarla, pensasse a lei come se fosse un animale di una specie diversa e più debole. Comunque lei lo aveva dominato.